Radio 24 Reportage. Sorella Paola è una religiosa che si dà un grande affare con i migranti. Ha fondato l'associazione Elin ed è un punto di riferimento qui nella città spagnola. Io vivo in Ceuta desde 1999. Io vivo a Ceuta dal settembre 1999 con due religiose. Assistiamo i migranti senza documenti che arrivano qui e i bambini di strada marocchini che tentano di passare in Europa. Ceuta è la porta d'Europa. È il primo passo per arrivare in Europa per gli africani, ma anche gli asiatici. Sta in territorio africano, ma politicamente è spagnola, solo che non appartiene a Schengen. Per cui arrivare a Ceuta non vuole dire che sei arrivato in Europa. Tanto arrivare a Ceuta non suppone arrivare a Europa. Da Ermana Paola i migranti possono seguire corsi di spagnolo e di creazione di piccola bigiotteria, monili, candele profumate. E intanto passano la giornata. I tempi per esaminare le domande degli immigrati sono spesso lunghi. Così si può stare a Ceuta anche diversi mesi ed è bene impegnare il tempo in qualcosa. Lascio la chiesa e mi incammino verso il centro dei migranti. Poco distante, Mati, una giovane laica tutta entusiasmo e sorrisi, ha aperto 2 anni fa un centro che organizza corsi di informatica e lingua, anche questo ad opera di volontari. Esa è mi pena, che nosotros lo incentivamo. La mia pena è che noi organizziamo corsi di lingua spagnola per prepararli teoricamente ad andare in Spagna, ma pochissimi di loro ci andranno realmente. Per gli asiatici l'asilo politico è impossibile. La sola possibilità è il permesso per motivi umanitari. Ad esempio, 2 anni fa 30 ragazzi del Bangladesh lo ottennero attuando la stessa protesta degli indiani. Per 3 mesi si accamparono sulle montagne attorno a Ceuta e adesso sono in Spagna. Fu il primo caso. E Madrid si impegnò in questa cosa, ma erano molti meno. Perché fu il primo caso di un gruppo, invece il secondo. Perché sono más, lo Bangladesh era meno. Al centro San Antonio, Babù e gli altri ragazzi possono farsi una doccia calda, una valida alternativa al ruscello vicino al loro accampamento o alla spiaggia. E poi, ogni sera, si attaccano ai monitor dei PC per comunicare con le loro famiglie, con gli amici, con chi è già in Europa libero. Perché hasta ahora los demás... Es que Ceuta es una cárcel. Ceuta è una dolce prigione. I migranti non sono liberi di entrare e uscire, quindi sono prigionieri, ma stanno bene nel senso loro. Sono felici insieme e sono liberi di muoversi. Certo, non hanno il diritto di lavorare. E gli stessi migranti riconoscono che una volta che entreranno in Spagna, le cose non andranno così bene, ma è quello che vogliono. La popolazione di Ceuta vuole loro bene, anche con la gente che non c'entra nulla con la Chiesa, secondo me i rapporti sono buoni. Certo, ci sono i razzisti, come ovunque, ma qui sono stati carini e la maggioranza li ha accolti davvero bene. Si è visto tutta la gente che siamo in Ceuta con loro e io credo che si è dimostrato il carino che la gente les tiene. Ceuta mi piace e allo stesso tempo non mi piace. Mi confida Rocky Gotra, 21 anni, di Ariana, una città vicino a Punjab. Ha appena finito di radersi, guardandosi in un vecchio specchietto di un'automobile appoggiato su una roccia. Dalla sua capanna emana un puzzo di umido e stantio. Dormono in 4 lì dentro, tra vecchi materassi e coperte. 2 ragazze bionde da un vecchio manifesto pubblicitario guardano chi dorme ancora nella tenda. Anche se è estate, la notte sul monte diventa fredda. Tra poco il sole renderà invece le capanne dei forni. Allora i ragazzi troveranno sollievo all'ombra degli alberi. Da qui, dalla baracca di Rocky, posso vedere il mare. In lontananza un traghetto veloce ha appena lasciato il porto di Ceuta e viaggia verso Gibilterra. In 40 minuti arriverà in Europa, nello spazio Schengen. Sono le 11 del mattino. Rocky mi fa un cenno. Ci incamminiamo verso la base della montagna, dove un largo e assolato spiazzo di cemento diventerà il loro luogo di culto. I like it, I don't like. I like it because... Mi piace perché i cittadini di Ceuta sono davvero delle brave persone. Ci aiutano da 2 anni, da quando siamo qui. Ci danno soldi per comprare cibo o vestiti o altre cose utili per noi. Non mi piace perché per noi è come una prigione. Non possiamo lavorare e viviamo qui sul monte. Dato che parlo spagnolo, mi piacerebbe entrare in Spagna. In India ero studente in economia e commercio all'università. Ora si stanno preparando per la preghiera Sikh. Una gustosa bevanda dolce a base di latte e lassi verrà divisa fra tutti. Preghiamo Dio affinché la nostra situazione possa migliorare, perché possiamo raggiungere la Spagna e lavorare lì. Ho lasciato la mia famiglia in India. Ogni tanto li chiamo. Ho 2 fratelli più giovani. L'ultima volta li ho sentiti al telefono sabato scorso. Ho detto loro che sono qua e tutto va bene. Mi hanno tempestato di domande. Ma la mia risposta è sempre no, no, va tutto bene. Non voglio dare loro pensieri, non racconto niente della mia vita qui. Dico che la situazione è buona, anche se non è vero, ma non voglio farli soffrire. I don't want to disturb them. So I didn't told anything about my life here, but I just told I'm living in a good situation, no problem. Dopo la preghiera, torniamo a casa, si fa per dire. Il sentiero si inerpica ripido per il monte, ma i ragazzi sono agili. Con le sole ciabatte ai piedi, mettono presto qualche metro di distanza fra me e loro. Così mi attardo a chiacchierare con Babù. Mentre saliamo, ci si gela il sangue per un attimo. Una ventina di militari spagnoli in assetto da combattimento, fucili spianati, ci fronteggia e corre giù dal monte verso di noi. Io e Babù ci guardiamo sgomenti. La minacciosa pattuglia ci oltrepassa quasi come fossimo invisibili all'urlo del caposquadra. Adelante, adelante! È zona di esercitazioni questa. Ceuta è una delle città più militarizzate al mondo. La salita a uno dei 7 accampamenti sparsi per il monte dura una ventina di minuti. Arriviamo che è ora dell'unico pasto della giornata. Sono le 3 del pomeriggio. Ropel diffonde nell'accampamento un po' di musica mentre Gurgissi sfoglia Il Faro, il quotidiano locale, in cerca di notizie che li riguardino. Dopo 16 mesi di vita nella foresta, giornali TV spagnoli si interessano alla loro vicenda. Qualche settimana fa a Madrid sono stati organizzati sit-in e piccole marce di solidarietà per le tigri del monte. La storia dei 74 indiani ha scosso l'opinione pubblica spagnola. Dopo la messa in onda una domenica sera sulla TV nazionale di un reportage su di loro, incontro nuovamente Babù. È felice, ma pare sempre più stanco. Quasi 2 anni di vita nel monte stanno sfiancando anche lui, che è il leader delle tigri. Ma lui è il punto di riferimento per i 50 indiani e deve mostrarsi forte. All'inizio della protesta erano in 74 a vivere nelle baracche. Poi una ventina di loro, dopo alcuni mesi in un rigido inverno, hanno gettato la spugna e sono tornati a vivere nel centro di accoglienza. Chiedo a Babù come si sente dopo aver visto se stesso e i suoi amici in televisione. Sono molto felice. Il reportage in televisione è stato fantastico. Adesso tutta la gente di Spagna sa di noi e della nostra situazione e forse per i politici sarà difficile dire di no al permesso di soggiorno per noi. Credo che la gente che ha visto il programma ieri notte ha cambiato l'opinione, l'idea che aveva riguardo ai migranti. Ora vedremo cosa accadrà. Noi non torneremo in India. Non siamo qui da 4 giorni o 4 mesi. Siamo qui da 4 anni ed è un tempo lunghissimo. Noi cercheremo con tutte le forze di arrivare a destinazione. Non sappiamo quando, anche se in questo preciso istante mi viene da pensare che sarà presto. Comunque, non torneremo indietro in India. Mi chiedi se potessi scegliere ora dove andrei? Abbiamo lasciato il nostro paese per lavorare, quindi ti dico Spagna, se posso trovare lavoro in Spagna. Ma non è importante dove. La cosa importante è trovare un posto di lavoro buono per me e che mi permetta di aiutare la mia famiglia. And it's not important that we stay in Spain or that we found about it. Il gruppo di indiani coordinato da Babù è estremamente organizzato. In periodiche riunioni ognuno esprime il proprio punto di vista sulla situazione e sul da farsi. Non dormendo né mangiando più al centro migranti, la piccola comunità ha dovuto ingegnarsi per guadagnare i soldi necessari per il sostentamento. Così si sono divisi in gruppi che ogni mattina alle 10 si recano al centro commerciale di Ceuta o in alcuni parcheggi per proporsi come facchini o aiuto posteggiatori. Portano le buste della spesa, mettono a posto i carrelli, i cittadini accolgono di buon grado l'aiuto e li ricompensano con pochi euro. La sicurezza e i gestori del supermercato ormai li conoscono e i rapporti sono di cordiale amicizia. Resta sempre la minaccia della polizia, teoricamente nessuno potrebbe dar lavoro ai migranti senza permesso di soggiorno. Però, per ora, l'autorità non è intervenuta in questo senso e così il lavoro viene portato avanti con discrezione. I 50 indiani fanno i turni durante la settimana, in media ciascuno di loro lavora 3 giorni e riesce a guadagnare 30 euro. Con quei soldi si compra il cibo e si ricarica il cellulare. Così la vita degli indiani di Ceuta scorre lenta e monotona, si lavora poco e si studia spagnolo, informatica, si inventano nuove bugie da raccontare a casa, si prega e si cerca di dare nuova linfa alle proprie speranze, si passeggia al tramonto in riva al mare, con lo sguardo sempre a cercare Gibilterra, che si staglia lì davanti alla spiaggia. Così lontana, eppure così vicina. E lo sguardo che segue con ansia la pattuglia della Guardia Civile, che è appena passata e ha scrutato nel gruppo per riconoscere chi fossero quegli stranieri. E poi la notte, nella foresta, spesso svegli, per paura che i militari decidano un'azione di forza e vengano su, fino all'accampamento, a catturare le tigri del monte, per poi rimpatriarle. Il fallimento di 4 anni di viaggio, di attesa, di investimenti economici ed emotivi, di fatica e di morti. E ora? Se Zapatero li facesse entrare, sarebbe il secondo precedente dopo i migranti del Bangladesh e una vera e propria falla nell'ormai blindatissima Spagna. Rispedirli a casa dopo 2 anni di attesa farebbe inalberare associazioni e una bella fetta di opinione pubblica. Perché un tempo così lungo nella dolce prigione di Ceuta e poi tutti a casa? Non si poteva rimpatriarli subito? Il caso diventa politico, emblematico. Ceuta rimane un ingranaggio fondamentale nella rotta delle migrazioni, un luogo cruciale, un non luogo in quanto limbo, un non luogo in quanto Europa ma terra d'Africa. Su questo giocano spesso i trafficanti, fanno credere ai migranti che stanno entrando nel vecchio continente. Tecnicamente è vero, ma un pezzo di Spagna qui in Marocco, un retaggio coloniale fuori tempo massimo che non aderisce a Schengen, si rivela ben presto per quello che è, un feticcio, un'ombra del sogno tanto agognato. E poi Ceuta è emblematica anche per un altro motivo. Non c'è solo l'Africa che preme sull'Europa per entrare, è anche l'Europa che entra in Africa, che sposta i suoi confini grazie ai pattugliamenti congiunti, frutto di accordi con alcuni stati africani, grazie all'agenzia Frontex per il controllo delle frontiere. Gli elicotteri e le motovedette di Frontex pattugliano non solo Spagna e Gibilterra, ma anche i mari della Mauritania, da cui nel 2006 partirono migliaia di piroghe alla volta delle Canarie. Così l'Europa si difende spostando controlli e confini, chiudendo accessi. Il risultato? Il flusso di migranti non si ferma, semplicemente cambia rotta. I trafficanti chiedono cifre maggiori, i viaggi diventano sempre più lunghi e pericolosi, le persone rischiano sempre di più la vita. The main important thing is if we found a work in India, we not left our country. Se avessi avuto un lavoro, tu non avresti lasciato il tuo paese. Se avessi saputo di soffrire quello che abbiamo sofferto noi, se avessi visto morire il tuo amico di fronte a te, se non avessi più potuto vedere la tua famiglia per anni, se avessi dovuto combattere con i neri e i marocchini per un pezzo di pane, non avresti lasciato il tuo paese. Se avessi saputo di dover bere nel deserto del Sahara acqua mischiata a benzina, non avresti lasciato il tuo paese. Noi non sapevamo nulla di tutto questo. Black people and the Moroccans for one piece of a bread, you don't left your country. And if you know, in Sahara you will drink a butter with the mix of a petrol, you don't left your country. Lascio Ceuta, torno in Marocco, direzione Tangeri, ripasso la frontiera, un'ultima occhiata alla fila di auto che attende di passare i controlli. Lì dentro potrebbe esserci qualcuno, rifletto. Guardo la fila di marocchini carichi di mercanzie che preme per entrare. E poi alzo lo sguardo verso le reti di protezione. Qualche mese fa un giovane africano che aveva tentato di scavalcare le reti protette dal filo spinato è morto lì, dilaniato e dissanguato. È rimasto lì, appeso, cadavere per ore, prima che i militari lo tirassero giù. Di lui non si sa nulla, naturalmente non aveva documenti. Senegalese ha sussurrato qualcuno che forse lo aveva conosciuto nei boschi nei dintorni di Ceuta o in qualche prigione marocchina. Senegalese. Forse, chissà. Restituire un'identità ai fantasmi è sempre difficile.